Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. A Roma l'avvertenza Fiat, Montezemolo, mai ricevuto un euro dallo Stato. A Termini gli operai incrociano le braccia, in Sardegna sciopero generale per l'occupazione. Ancora una giornata di cali sulle borse europee, secondo gli esperti è l'effetto delle speculazioni. Il sindaco di Verona ci ripensa e annuncia: stimo napoletano e riappenderò la sua foto nel mio studio. Il governo pensa ad un permesso di soggiorno a punti per gli immigrati con prova d'italiano e studio della Costituzione. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In primo piano due vicende che riguardano il futuro di migliaia di lavoratori. In Sardegna lo sciopero generale in sostegno anche della vertenza Alcoa, ne parleremo fra pochissimo. A Roma invece è ripreso il tavolo della Fiat. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Partiamo subito dalla notizia di questa mattina. La Fiat ha ribadito qui al Ministero per lo Sviluppo Economico di non essere interessata a proseguire la sua attività a Termini Imerese a partire dal 2012. Il ministro Scajola è in questo momento da Berlusconi per riferire sulla situazione. Appresa la notizia, gli operai siciliani hanno sospeso il lavoro. Il tavolo su Termini Imerese è stato aggiornato al 5 marzo. Ma al futuro degli stabilimenti Fiat si intreccia necessariamente anche il tema degli incentivi auto. Dopo le polemiche di ieri a distanza tra Berlusconi e l'amministratore delegato dell'Indotto Marchionne, appare oggi il presidente della Fiat Luca Cordero di Montezemolo, che dice: non abbiamo mai ricevuto un euro dallo Stato. Ascoltiamo. Da quando noi siamo alla Fiat, la Fiat non ha ricevuto un euro dallo Stato. Ieri ho visto delle cifre che dicono che gli incentivi che sono dati non alle aziende ma ai consumatori, cioè chiunque di noi vuole comprare una macchina ha la possibilità di avere uno sconto, sono andati per il 70% alle aziende straniere. Vincenzo, sentiamo di sottofondo anche dei cori, ci sono dei lavoratori che stanno protestando? Sì, è così. Di fronte qui al Ministero in via Veneto c'è un presidio di lavoratori precari di Pomigliano d'Arco che protesta a sostegno del mantenimento del posto di lavoro, una protesta molto civile ma rumorosa. E ricordiamo quindi, il tavolo su Termini Imerese è stato aggiornato al 5 marzo, su Pomigliano d'Arco si sta parlando proprio in questo momento. Grazie a Vincenzo Miglietta. Noi ci trasferiamo invece da Roma a Cagliari per lo sciopero generale di tutta la Sardegna. In diretta Roberta Secci. Sì, buongiorno, sono qui in Piazza Ien, dove si sono appena conclusi i comizi alla fine della manifestazione, cui hanno partecipato almeno 50.000 persone secondo le ultime stime. E sono qui con Rino Barca, segretario territoriale della CISL del Sulcis, che sta portando avanti l'avvertenza Alcoa, la fabbrica simbolo della crisi in Sardegna. Buona giornata. Sì, allora questo sciopero oggi di tutta la Sardegna, anche a sostegno dell'avvertenza Alcoa, ci sono moltissime persone che stanno partecipando. Beh sì, questa di oggi è una giornata di sciopero regionale che sta a significare il grande disagio che sta vivendo in questo momento la Sardegna. Per quanto riguarda Alcoa, siamo stati qui presenti con una grandissima delegazione proprio a sostenere con forza quanto in questi giorni stiamo portando anche ai tavoli nazionali. Ne approfitto di questa emittente per scusarci con tutti quanti, abbiamo creato dei disagi, sto parlando, mi riferisco ai lavoratori dell'aeroporto, delle manifestazioni fatte per strada. Ai blocchi dei giorni scorsi, certo. Però noi pensiamo che queste iniziative che stiamo portando avanti servano a risvegliare il cuore e gli animi dei sardi, che devono una volta per tutte ribellarsi alla condizione di sussidio, di assistenza, perché qui c'è la necessità di portare avanti il lavoro, certo, che sta venendo meno, che ci stanno portando via. E allora in bocca al lupo per la vostra avvertenza e grazie mille per questo collegamento a Roberta Secci da Cagliari. Restiamo invece su temi economici, perché quella di oggi è un'altra giornataccia sui mercati. Il punto con Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno a te gli ascoltatori. Come dicevi, ancora oggi oggi le borse in calo, i timori sui deficit di Grecia, Portogallo e Spagna e anche le speculazioni stanno tenendo sotto pressione i mercati azionari. Per la terza seduta consecutiva gli operatori registrano ondate di panic selling. A Milano in questo istante la peggiore, fatta eccezione per Atene che cede il 3,7%, Milano è in calo di 2,32 punti per il FTSE MIB, 2,4 punti per il FTSE IT All Share. Per quanto riguarda gli altri mercati, Parigi meno 2,2, Francoforte meno 1,1, Londra meno 1,79% e Madrid, che ieri aveva ceduto il 5,5, in questo momento è in ribasso di 2 punti percentuali, nonostante il premier Zapatero abbia ripetuto anche questa mattina: il nostro sistema finanziario è solido, ha detto, ma i dati del quarto trimestre del 2009 dicono tutt'altro, hanno registrato un calo dello 0,1% del PIL. L'anno scorso, lo ricordiamo, il PIL spagnolo ha subito una flessione del 3,6%. Resta debole in Europa anche l'euro, che a fatica è sopra 1,37 dollari. Abbiamo chiesto al professor Gregorio De Felice, capo economista Banca Intesa, presidente AIF, se e quanto questo momento difficile dei mercati ci deve preoccupare. Sentiamo. C'è una nuova ondata di speculazione che colpisce paesi con elevato debito. Sinceramente i volumi di scambio in questo momento non sono particolarmente elevati, anche operatori che cercano di approfittare per comprare questi titoli hanno difficoltà nel trovare contropartite rilevanti. Questo fa un po' pensare che sia soprattutto un'ondata speculativa che potrà durare ancora un po', ma non con dei grandi fondamentali sotto. La situazione della Spagna con il suo deficit intorno al 10% è nota da tempo, non c'è nessun elemento nuovo. Quindi mi sembra che ci sia un po' un'ondata che porta alla ricerca di nuove occasioni di profitto da parte dell'intermediazione, probabilmente soprattutto un'intermediazione non europea che conosce poco i meccanismi di funzionamento dell'area dell'euro. Stiamo vedendo anche un euro abbastanza debole. Sì, il concetto dell'Unione Monetaria Europea è messo in forte crisi. Purtroppo noi europei stiamo un po' mancando nel dare rapidamente delle risposte rispetto a questo tipo di difficoltà. Forse preferiamo un pochino avere un po' di speculazione contro, questo ci aiuta indebolendo l'euro e quindi favorendo le nostre esportazioni in maniera indiretta. E grazie a Valentina Furlanetto per questo approfondimento su quanto sta accadendo sui mercati. Questi invece sono i dati Istat di questa mattina. I prezzi al consumo a gennaio sono aumentati dello 0,1% rispetto a dicembre e dell'1,3% rispetto a gennaio 2009. Lo rivela appunto l'Istat sulla base della stima provvisoria. E cambia il paniere Istat nel 2010 per il calcolo dell'inflazione. Paniere che è sempre lo specchio dei nostri tempi. Che se ne dica, siamo un popolo mutante, magari un po' invecchiato, come dimostra l'ingresso della badante nel paniere, ma anche aperto alle novità e alle comunicazioni con l'esterno. Tra le nuove voci, per esempio, ci sono i voli low cost nazionali e lo smartphone, cellulare di nuova generazione capace di fare mille cose, forse perfino troppe, ma va bene lo stesso che siamo tutti molto fashion. Nulla meglio del paniere Istat per capire chi siamo, dove andiamo e cosa ci lasciamo alle spalle. Il fiammifero, per esempio, ormai è un oggetto desueto da 900 arretrato che riporta un altro mondo di piccole economie domestiche o di romantici investigatori che si accendono la pipa mentre chiacchierano con la portiera. Anche la riparazione dell'orologio non tira più, se non va si butta. E con 30 euro se ne prende un altro che sembra un'astronave. Addio anche alle lampadine tradizionali che le nonne di un tempo raccomandavano di spegnere. Sostituite da quelle a basso consumo o dalle luci al neon, simboleggiano uno stile di vita, crisi o non crisi, che si è spento per sempre e che nessuno rimpiange. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alla pagina politica. Di Pietro manovrato dai servizi segreti durante Mani Pulite, è una versione che vi pare credibile? Era la domanda del nostro sondaggio di oggi. Lui la butta sul ridere e si autodefinisce James Tonino Bond. Certo è che Antonio Di Pietro si trova a doversi difendere dalle accuse che da qualche giorno gli piovono addosso, in particolare dopo che il Corriere della Sera ha pubblicato una foto che lo ritrae nel 92 in piena Mani Pulite al tavolo con alcuni pezzi grossi dei servizi segreti. Di Pietro manovrato da 007 italiani e forse anche americani? Per il 63% dei nostri ascoltatori che rispondevano a questa domanda, la versione non è credibile. E la polemica ha dato modo anche a Luigi De Magistris e Bobo Craxi di battibeccare così. Ma io capisco che Bobo Craxi, essendo il figlio di una persona morta latitante e condannata per corruzione a pene così gravi, voglia far riscrivere la sentenza a un'autorità politica quando le sentenze le ha scritte la magistratura. Lo posso capire sul piano umano, perché il figlio, ma sul piano storico e giudiziario è un'affermazione semplicemente risibile. Bianconero torna lunedì mattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Ci ha ripensato il sindaco di Verona Flavio Tosi. Il 18 giugno 2007 aveva detto: tolgo dal mio studio la foto di Napolitano perché da lui non mi sento rappresentato. È un comunista ed è stato eletto con una vistosa forzatura delle buone regole parlamentari. Ora invece la foto tornerà nello studio di Tosi. Sentiamo perché di questo ripensamento. Ma diciamo che il giudizio sul presidente nasceva da quella che era la modalità della sua elezione, che era stata piuttosto forzata, perché il Parlamento aveva sempre votato a maggioranze più larghe il presidente, condividendolo. In quel caso, provenendo da una scuola comunista, evidentemente la figura di Napolitano non aveva convinto, però devo dire che rispetto al suo operato, in particolare con questo governo, che evidentemente ha un'altra appartenenza politica, mi pare che come Presidente della Repubblica si sta comportando, anche se ovviamente non spetta mai giudicarlo, da Presidente della Repubblica, nel senso in maniera il più equilibrata possibile, il che non è facile, quindi gli devo dare atto positivamente dell'equilibrio col quale sta svolgendo il suo ruolo. Quindi questo ripensamento deriva dal fatto che prendo atto con molta soddisfazione dell'equilibrio col quale il presidente interpreta il suo ruolo a servizio di tutti i cittadini italiani. Sarà pure comunista, però insomma ha interpretato correttamente il suo ruolo, è un po' questo il senso delle sue parole. Sì, ha saputo dimostrare di essere comunque super partes nonostante un'appartenenza politica precisa. Cosa fa? Lo invita anche a Verona? Beh, noi l'abbiamo già invitato, abbiamo mandato una lettera nella quale speriamo che il presidente Napolitano venga a visitare la nostra città, anche perché potrà apprezzare sicuramente Verona, ma ancora di più i veronesi. E quando rivedremo la sua foto invece nel suo studio? Beh, adesso l'abbiamo chiesta perché serve la foto ufficiale e quindi a breve questo potrà succedere. E questo era il sindaco di Verona Flavio Tosi. Domenica, come vi abbiamo già raccontato, auto ferme a Torino, libera circolazione invece a Milano. Nel futuro c'è il tavolo di coordinamento antismog fra le città della pianura padana che partirà il 22 di questo mese. In attesa delle grandi strategie, sempre più abitanti delle grandi città intanto abbandonano le auto. Andrea Poggio, vice direttore generale di Legambiente, al microfono di Laura Bettini. Facciamo un errore a pensare che siamo all'anno zero, ma lo sapete che anche in Italia la decrescita della motorizzazione sta nascendo in città. È nelle città dove c'è un tasso di motorizzazione inferiore rispetto alla provincia. Milano in particolare. Milano ha perso dal 1990 ad oggi 200.000 macchine e solo, tra virgolette, 50.000 abitanti. 4 volte più macchine che abitanti. Vuol dire che qualche cosa sta cambiando, per esempio negli stili di mobilità. Motivi diversi, non mica sempre la scelta ecologica. Alcuni sono messi ad andare in bicicletta, ma altri semplicemente hanno trovato più comodo e meno dispendioso perché non sapevano dove andare a parcheggiare il loro veicolo. Tutti i motivi che volete, virtuosi o meno virtuosi, ma sta cambiando qualcosa di radicale. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della vertenza Fiat. Il tavolo di questa mattina è stato aggiornato al 5 marzo. Montezemolo dice: mai ricevuto un euro dallo Stato. Intanto a Termini Imerese gli operai incrociano le braccia. Sciopero generale invece in Sardegna, anche a sostegno della vertenza Alcoa. Poi abbiamo parlato della nuova giornata di cali sulle borse europee. Gli esperti dicono è colpa delle speculazioni. E ripartiamo ora parlando del permesso di soggiorno a punti allo studio del governo. Si dovrà raggiungere quota 30 per mantenerlo con un sistema di crediti e debiti. Sentiamo come dovrebbe funzionare e poi il commento di Francesco Marsico, vice direttore di Caritas Italia. La conoscenza della lingua e della Costituzione daranno punti, mentre la commissione di reati li toglierà. La novità sarà contenuta in un decreto che presto andrà in Consiglio dei Ministri. Il provvedimento disciplina l'accordo di integrazione che lo straniero dovrà obbligatoriamente stipulare al momento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno. Con questo accordo l'immigrato si impegna a conseguire durante il periodo di validità del permesso, 2 anni, una serie di obiettivi, dalla conoscenza della lingua italiana a quella della nostra Costituzione, dall'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale al regolare contratto abitativo, tutte prove che daranno un certo numero di crediti, la perdita dei quali comporterà la revoca del titolo di soggiorno, con la conseguente espulsione amministrativa. Alla fine dei 2 anni la soglia da raggiungere è di 30 punti. Se se ne raggiungeranno di meno ci sarà la proroga di un altro anno. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Ovviamente si sa ancora molto poco, si capisce questo percorso complesso di appunto diciamo così inserimento e integrazione per le persone immigrate. Evidentemente alcune cose fanno sorridere, soprattutto le cose che riguardano appunto la dimensione della radicalità dell'inserimento, per esempio gli affitti regolari, che sono un problema non soltanto per gli immigrati ma anche per i nostri residenti, perché i livelli di legalità di questo paese non definiscono certamente i comportamenti degli immigrati. In alcuni casi sembra che sia più una corsa a ostacoli che un percorso di integrazione, però evidentemente dobbiamo aspettare con un po', diciamo così, di pazienza l'articolato. Prima di tornare a parlare di scuola, una notizia che arriva dall'estero, perché in Pakistan, in particolare a Karachi, sono scoppiate diverse bombe. Un veicolo prima è saltato in aria nel centro della città, secondo le prime informazioni ci sarebbero molti morti, almeno una decina, e poco fa un'altra esplosione è avvenuta nell'ospedale invece di Karachi, dove erano stati portati proprio i feriti dell'attentato al minibus di qualche ora precedente. Dunque davvero una giornata difficile per Karachi in Pakistan. Noi torniamo invece in Italia per parlare della riforma delle superiori varata ieri dal governo e che entra in vigore, ma solo per le prime classi, già dal prossimo anno scolastico. Questa mattina è tornata a difendere la sua riforma il ministro della pubblica istruzione Gelmini, intervenuta al microfono di Oscar Giannino. Noi riteniamo che non si migliori la scuola facendo un ragionamento solo di tipo quantitativo. Cioè l'Italia da molto tempo pensa che basti aumentare il numero degli indirizzi, il numero delle sperimentazioni, il numero delle ore di lezione per migliorare il sistema. La realtà però va in una direzione esattamente contraria e sconfessa nei fatti questa posizione, al punto che proprio la settimana scorsa un organismo credo indipendente come l'OCSE, non è certamente la voce del governo, è una voce terza, ha stigmatizzato il sistema di formazione italiano proprio perché reo di imporre un numero di ore di lezione superiore alla capacità dei ragazzi di prestare attenzione, di poter seguire con profitto le lezioni. Quindi la sinistra si ostina a dire che questa è una manovra di tagli, che bisogna aumentare il numero delle ore, il numero degli insegnanti, il numero degli indirizzi. Però così facendo, ricordo che il nostro sistema di istruzione è sostanzialmente agli ultimi posti nelle classifiche internazionali. Grandi dubbi sulla riforma arrivano invece dal mondo sindacale. Domenico Pantaleo della CGL Scuola. Un progetto autenticamente riformatore ha bisogno di essere sostenuto da risorse umane, risorse finanziarie ad esempio per facilitare anche le possibilità di apprendimento. Tanti edifici scolastici sono in una condizione pietosa, è necessario rafforzare i laboratori, renderli più sicuri. Insomma, c'è bisogno di un piano di investimenti, invece qui abbiamo il paradosso che si taglia più che investire. Il secondo è che non c'è una razionalità didattica e pedagogica. In realtà la mia opinione è che si fanno tagli un po' a casaccio soltanto per rientrare all'interno della logica dei tagli. Poi noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di razionalizzare gli indirizzi, di potenziare alcune materie, ma tutto avviene attraverso una compensazione, nel senso che sugli istituti tecnici e professionali, ad esempio, ci si ferma alle prime per applicare la riforma, che prevede, come è noto, meno ore. E nello stesso tempo, secondo, terzo e quarto, negli istituti tecnici e professionali, a percorsi di istruzione già avviati, si vanno a ridurre drasticamente le ore e peraltro si andranno a colpire, perché questo è il criterio, le materie professionalizzanti, cioè quelle materie che prevedono più di 99 ore annuali di insegnamento, che sono le materie poi determinanti anche per facilitare l'apprendimento e per dare alle ragazze e ragazzi una qualità maggiore sulle competenze. La pagina di cronaca: un pensionato di 74 anni ha ucciso a colpi di fucile la nuora e la nipote di 50 e 25 anni per un banale litigio di vicinato. È successo a Pagani, nel Salernitano. E particolarmente efferato anche l'omicidio di qualche giorno fa a Como. Il timore di perdere l'armeria di famiglia è stato il movente decisivo. Per questo il quarantenne comasco Alberto Righi si è trasformato da tranquillo commerciante in killer efferato, sparando al 43enne Giacomo Brambilla, titolare di alcune pompe di benzina nella città lariana, a cui doveva parecchio denaro. Soldi prestati per tentare di salvare l'attività dell'armiere, che rischiava la chiusura. Dopo avergli sparato nel negozio di famiglia, Arrighi ha deciso di rendere irriconoscibile la vittima decapitandola e bruciandone la testa nel forno della pizzeria di proprietà del suocero. Infine ha abbandonato ciò che restava del corpo di Brambilla lontano da Como, nel greto di un torrente vicino a Domodossola. Il criminologo Francesco Bruno: faceva l'armiere, che non è un mestiere come tanti altri e che può presupporre una personalità affascinata dalla violenza e così via. Il problema è anche però da dire che c'è una grossa influenza dei media, filmati televisivi e citati dal valore sempre più alto della violenza, finiscono anche per condizionare queste persone e fargli giocare una vera e propria fiction, che però purtroppo non si serve di succo di pomodoro, ma di ben altre cose. Ma a rendere tutta la vicenda più inquietante è il messaggio pubblicato su Facebook dalla moglie dell'assassino, Daniela La Rosa, che ha voluto così difendere il marito. Albi è una persona meravigliosa, un grande uomo e nonostante tutto rimane tale, ha scritto in rete. E la risposta degli amici non si è fatta attendere, con vari attestati di vicinanza e affetto. Sembra che Brambilla lasci pochi rimpianti per la sua morte. Questo tipo di cosa succede quando, per esempio, la vittima uccide l'usuraio, no? C'è un proverbio, come sempre i proverbi rappresentano la saggezza dei popoli, l'attenzione all'ira dei buoni, no? Perché arrivano a livelli inusitati. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Notizia di agenzia di poco fa: il numero uno di Toyota ha offerto le sue pubbliche scuse per i maxi ritiri di auto per i problemi al pedale dell'acceleratore. In una conferenza stampa nel quartier generale di Nagoya, dunque in Giappone, l'uomo ha anche annunciato la costituzione di una commissione che dovrà fare luce sulle cause di quanto accaduto. Tornando invece in Italia, sprovvisti di biglietto hanno minacciato il capotreno per non pagare. Per questo 10 tifosi del Palermo sono stati denunciati dalla polizia ferroviaria. L'episodio è avvenuto sul treno Messina-Palermo mentre i tifosi erano di ritorno dalla trasferta di Napoli. Ed ora invece il rugby. Vigilia di Irlanda-Italia, con gli azzurri chiamati a ribaltare un pronostico tutto a loro sfavore. Da un lato la squadra campione uscente, quella che nel Sei Nazioni 2009 ha vinto 5 partite su 5 facendo il grande slam. Dall'altra quella che ha finito lo stesso torneo con il cucchiaio di legno, beffardo riconoscimento virtuale che tocca a chi perde tutti i match. Eppure qualche volta le previsioni, anche quelle più fondate, vengono clamorosamente smentite. Oggi, per esempio, è il 10° anniversario di Italia-Scozia, il primo match giocato dagli azzurri nella storia del torneo, che nel 2000, appunto, cambiò nome da 5 a 6 nazioni. Al Flaminio gli scozzesi, che l'anno prima si erano portati a casa il trofeo, vennero battuti 34-20 con il piede straordinario di Diego Dominguez, la forza della mischia e la spinta di un pubblico che da allora ha vissuto poche gioie della stessa intensità. Giacomo Bagnasco, GR24, Il Sole 24 Ore. Obama taglia, per così dire, la Luna e il progetto Constellation, che doveva riportarvi gli equipaggi americani entro il 2020. In compenso allunga la vita della Stazione Spaziale Internazionale. Domenica mattina il lancio previsto della missione Shuttle STS-130, nella stiva un carico tecnologico made in Torino. A Luigi Quaglino, responsabile infrastrutture e trasporti spaziali di Thales Alenia Space, Gigi Donelli ha chiesto una valutazione dal punto di vista dell'industria europea sulla decisione del presidente americano. Ci sembra che Obama, più che tagliare la Luna, ha detto: questo programma della Luna così com'è non ci piace perché non è innovativo, bisogna che ci concentriamo su nuovi programmi, nuove tecnologie, in maniera tale che l'esplorazione possa essere sviluppata con tecnologie e mezzi di nuovi. aprendo anche a collaborazioni con gli altri paesi. Ma sicuramente noi la possiamo vedere positivamente, perché il fatto che ci sia un'apertura a collaborazioni internazionali, cosa che invece nel programma precedente della Luna non c'era, perché era un discorso solo americano che non contemplava delle collaborazioni con il resto del mondo e con l'Europa in particolare, sicuramente noi la vediamo in senso positivo. Veniamo a STS 130, la missione che prevede dunque il lancio domenica dello shuttle. Cosa c'è nella stiva? C'è tanto di Italia innanzitutto. Nella stiva c'è il nodo 3 con la cupola. Il nodo 3 è un altro elemento essenziale della stazione spaziale, sicuramente il più complesso, il più complicato dal punto di vista tecnologico, è veramente un cuore per la stazione spaziale, nel quale dentro ci sono anche nuove tecnologie, sia per l'utilizzo dei liquidi, dell'aria, per riciclare l'aria in maniera tale da migliorare la vita degli astronauti e ovviamente in futuro anche dei futuri esploratori spaziali. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Pietro Lacorte. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.